Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera a tutti, siamo di nuovo a Ethno Chic. Ciao Babe, ciao Azul. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. E questa sera abbiamo degli ospiti dall'altra parte del vetro, i Team Midua, che stiamo provando a registrare, a captare per voi, a trasmettere sull'etere di Bologna e magari anche via web. Ricordo le frequenze 94.7, 96.25. Oppure sul sito cedicapo.it, dove potete sentirci in ogni parte del mondo. E abbiamo appunto ospiti Team Midua che stanno facendo una serie di concerti nell'ambito del progetto Sound Roots, e non solo, è un gruppo che esiste da diversi anni e saranno loro proprio a presentarsi. Ciao! Ciao a tutti! Ci presentiamo allora, io sono Valentino, suono la chitarra. Io sono Aziz, fare la voce e la chitarra. Giampaolo alle percussioni. Manca il quarto, Francesco, che suona il basso e non è potuto essere qua. E aggiungiamo anche un quinto elemento che purtroppo adesso è nel Sahara, cioè purtroppo, forse ben per lui, per lavoro, Mohamed, che è un po' di mesi che ci ha lasciato orfani. Ecco. E che lui suona il? E lui canta con noi e un po', di un po' le percussioni. Beh, meglio così, perché in cinque non ci saremmo stati. Comunque sì, come hai detto te, voi fate musica che viene dal Sahara, giusto? Esatto. Aziz, vuoi raccontarci qualcosa di da dove vieni, il tuo paese? Sì, io sono in Touareg, del sud dell'Algeria, abito a Tamaracet e di là si fa la musica, si fa tutte le cose, si fa il pastore, si fa di tutti. Siamo noi Touareg, un popolo che è un po' diverse da Mali, Niger, Libia, Burkina, ma tutti si trovano insieme, uguali, di Mali o di Niger o della Libia o dell'Algeria, tutti sono Touareg, che si capisce anche l'altra lingua, lingua di loro. Sì, avete quindi anche delle tradizioni anche musicali comuni. Sì, sì, c'è anche il... noi, prima le persone suonano con strumenti che si chiama Tehardent. Che sarebbe? Sarebbe una chitarra, si chiama Tehardent, che fanno con linea, due corde o tre corde di pelle. Sì, di budello. Sì. E suonano con questa, c'è una che si chiamano Inadan. Noi si dice Inadan queste, loro che fanno la musica questa, o c'è le donne che fanno in strumenti differenti, che si chiama Emzad. E sarebbe? Sarebbe come un violino così, Che è suonato diritto o è suonato appoggiandolo sulla spalla? No, suonano avanti loro così, davanti. Non si suona sulle spalle. E anche questo serve per accompagnare il canto comunque? Sì, gli uomini cantano. La donna fa questa Emzad, c'è un uomo accanto che canta. Che canta. Sì. E questo è anche fino al Mali si trova? Sì, sì, dove c'è Touareg ti trova questi strumenti. Uguale Mali, di Niger, della Libia, tutti. E quindi tu sono diversi anni che suonate assieme questa musica, vero? Con Valentino. Con Valentino, sì, 3-4 anni, sì. Però anche prima suonavi, cioè sì, sempre suonato. Sì, anche prima suona lì a Tamaracet, Quando hai iniziato a suonare? Da che età? Boh, io ho suonato da 22 anni o così. E dopo ho abbandonato la chitarra per 10 anni o di più, non so, 15. Non suona con le gruppi, suona solo da sola. Per esempio, io di là in Algeria, qualche volta fare il guida dei turisti e prendere la chitarra con me e suona con loro così. Ma non suona al pubblico, suona... Sì, per molti anni non hai più suonato in pubblico. E dopo il momento che è arrivata in Italia qui... fatto in gruppo qui con tre ragazze Touareg che arrivano, anche una del Niger, una del Mali, e purtroppo sono andati, sono rimasto solo io, e dopo ho trovato Valentino e lui che mi ha fatto un po' avanti. Giampaolo, sì. Valentino, come ti sei trovato a, appunto, non solo a suonare questa musica, ma anche a cantare, insomma, in lingua Touareg? Ma anche Valentino è un Touareg di Bologna. Beh, che dire, sulla lingua non è facilissimo, perché diciamo hanno dei suoni un po' particolari, però, sai, è un po' anche come da ragazzini facevi con le canzoni inglesi, no? Ti metti lì, provi a pronunciare senza sapere bene cosa stai dicendo. Il suono. Però poi pian piano il suono lo fai tu, è così. E invece per quanto riguarda il fatto di essermi avvicinato a questa musica, beh, chiaramente quando ho conosciuto i Tinari Wen, che sono sì, il gruppo più conosciuto, che fra l'altro sono stati diverse volte qui a Bologna. Esatto, qua a Bologna, al Locomotive. E niente, ho sentito la loro musica e dentro ci ho trovato qualcosa di mio. Alcuni aspetti proprio musicali che avevo nella mia musicalità come persona, ecco. E quindi poi quando mi è capitato di conoscere Aziz, insomma, ho iniziato un po' a insistere, ma non è che mi fate suonare la chitarra. E alla fine poi quando appunto è partito questo ragazzo del Mali, Sidi, ha continuato il suo viaggio verso la Francia, ho iniziato a suonare con loro. Sì. E Giampaolo? Ma io ho avuto le mie esperienze, se partiamo da piccolo, iniziai col metal. Cioè, do una speranza a tutti, yeah, che si può uscire da questa cosa. E poi ho fatto diverse esperienze in molti generi musicali, che faccio un po' il ladro. Incomincio, mi piace un genere, prendo qualcosa, poi magari mi stanco e passo ad altro. E adesso mi trovo in questo bellissimo gruppo. Tra l'altro li vidi suonare prima che suonassi insieme a loro. E mi piacquero molto, e poi alla fine Valentina ha detto: guarda, se vuoi c'è un posto per te, e io mi sono presentato subito. Bene, io vi lascerei a fare un altro brano in questo momento. Volete presentarlo? Sì, un pezzo che si chiama Tamiditin, mio amore. Va bene. Dorkiji, that I'll walk some man, some man, worthy and meekie. Grazie Timidua, che sono qui ospiti da noi in studio, Ethno Shaker su Radio Città del Capo. E ci sentite? Sì, sì. Vi volevo chiedere, questi brani, alcuni brani Azizi li hai scritti tu, giusto? Sì, questa anche la prima e anche questa ho scritto io, sì. Sono brani che hai scritto in questi anni oppure erano cose che avevi già... Sì, quest'anno qui in Italia hai scritto. In questi anni? Sì. E quindi poi insomma li avete un po' arrangiati assieme col gruppo, Valentino? Sì, diciamo che mi ha un po' istruito lui perché nel senso che loro hanno delle ritmiche, certo, che per un chitarrista diciamo europeo non sono complicate di per sé, magari il tipo di ritmica, la difficoltà e l'intenzione è capire come devi, certo, entrare. Ritmica. Sì. E quindi diciamo ho passato i primi 2 mesi di apprendistato con Aziz, mi diceva no, non è così, certo, sembrava, sì, di farle giuste invece. E che poi è importante perché c'è il sistema di trasmissione orale che in realtà poi, esatto, dà molto di più di leggere uno spartito. Chiaramente, sì, sì, sì. Ci dà molte più possibilità perché in qualche modo è come se assorbiamo, insomma, riusciamo a assorbire questo linguaggio direttamente. Proprio, direttamente. Esatto. E quindi sì, poi le abbiamo un po' viste insieme, poi mano a mano che sono riuscita a entrare più dentro ho cercato di mettere qualcosa di più mio dentro. Bene. E facciamo un altro brano? Sì. Sì. Calanisa, sì, aspetta. Ne approfitto per chiederti una cosa, Valentino, che mi è venuto in mente adesso. Quindi tu cambiate anche delle accordature, giusto, a seconda dei brani, della chitarra? Allora, diciamo sì, perché la chitarra di Aziz, praticamente il suo modo di suonare si basa su un basso bordone, mm-hmm, e poi improvvisa, sì, la melodia. Comunque sotto c'è sempre questo bordone sotto, sì, col basso. E quindi che poi è la tecnica anche di alcuni liuti del Mediterraneo, per esempio l'auto cretese ha questa tecnica di giocare tra il basso e anche il ghimbri in Marocco. Esatto, infatti cosa. A proposito del ghimbri, il terdente, quel liuto di cui parlava prima, a vista si assomiglia molto molto al ghimbri, però è più piccolino. È più piccolino. E quindi lui magari a seconda del brano e della tonalità in cui vuole suonare sistema il basso in quella nota. Invece io mi sono un po' inventato questa cosa qua di cambiare la nota su alcune corde perché notavo che alcuni brani non li sentivo né maggiori né minori, fondamentalmente. Beh, e allora praticamente adotto un po' questa accordatura e mi permette di fare degli accordi sospesi senza mettere la terza, certo, per capirci. Sì, altrimenti daresti un carattere molto, esatto, non lo sentivo né maggiore né minore, allora ho detto vabbè, elimino la terza e via. Va bene. خلان الزغط نيري وري هالغاز الدورفين خلان الزغط نيري وري هالغاز الدورفين غنطة طنتي هاتين دولي تندي نطف سنين تكشرين شاشوي نرتس نضيضين خلان الزغط نيري وري هالغاز الدورفين نضاق نحن ما نكسو ولا نضرم ورد نغشيد خلان الزغط نيري وري هالغاز الدورفين بلنات ورد مسك صدم يجدد انت يلددن تا يلددن تا غدن انهضن هواتك سوف في جادر دفوس Nonostante il caldo, state andando alla grande, mi sembra. Grazie. Lui è abituato a quello del deserto, figurati. No, in radio l'acustica è pazzesca, nel senso siamo abituati a suonare all'aperto alla fine, no? Certo. E suonare in cuffia è molto diverso. Sì, sì, è normale, ce lo dicono in tanti. Sì, chiaramente è un'esperienza molto differente. Beh, comunque per noi il risultato è buono, spero anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ce lo faranno sapere. Esatto. E quindi qui abbiamo anche con noi Claudia Carini, che insomma è un po' una delle ideatrici di questo progetto europeo che si chiama Sound Roots. Buongiorno Claudia. Sì, buongiorno. Avvicinati anzi. E ti volevo chiedere, insomma, cos'è questo progetto, da dove nasce e, insomma, cosa, che rapporto ha con i Timidua? Allora, il progetto in realtà nasce descritto soprattutto con un'amica e da lei che vive a Siviglia, che collabora, che si chiama Caterina Amicucci e che collabora con un'agenzia che si chiama Marmaduke, che è poi è capofila di questo progetto, che è un progetto europeo che coinvolge più paesi, tra la Spagna, la Germania, il Belgio e poi in Italia, l'Italia. In realtà l'idea è quella di cercare il più possibile di far conoscere artisti, musicisti che provengono da altri paesi qui in Europa, creare anche dei legami con musicisti locali. E anche degli scambi musicali In realtà nel caso di Timidua questo incontro era già avvenuto indipendentemente da noi e infatti io li conoscevo, li avevo più volte ascoltati e il contatto con loro è nato perché in un centro di accoglienza a Villa Aldini c'era, mi avevano parlato di, appunto, di un ragazzo di origine Tuareg che non era un musicista professionista, ma che spesso usava, si avvicinava a questa chitarra, e che però mi parlavano di lui come una persona molto chiusa, anche perché parlava una lingua diversa anche da tutti gli altri che erano lì. E quindi, e poi era molto, insomma, come dire, molto silenzioso, giusto? Sì, molto silenzioso, anche rispetto ai suoi amici, con cui avevo già un rapporto, anche gli altri ragazzi che lì suonavano, che ero riuscita a coinvolgere il progetto. Per cui timidamente mi sono procurata il numero di Valentino e l'ho contattato, e loro sono stati subito super disponibili nella possibilità di incontrare questo ragazzo e cercare, appunto, di creare un canale di comunicazione con lui, appunto, che è proprio nello spirito del progetto, cioè di comunicare attraverso la musica al di là di quelle che sono poi le barriere linguistiche. Infatti questa comunicazione mi sembra che, appunto, il giorno in cui siamo andati da lui, il 1° maggio, con Aziz, con Valentino, cioè piano piano è avvenuta, ed è stato, secondo me, un momento molto molto E Valentino, molto bello. Voi siete, raccontami un po', insomma, il seguito in qualche modo. Voi siete andati lì e lui, io devo dire che so come è andata a finire, non solo perché me l'ha raccontata Claudia, ma anche perché ho visto un piccolo video che avete girato. Ma i nostri ascoltatori no. Esatto, quindi lo faccio raccontare a loro. Sì, siamo andati lì, chiaramente lui ha molta nostalgia della sua cultura, del suo paese, quindi c'è stato un momento in cui abbiamo iniziato a suonare delle sue canzoni, cioè delle canzoni della sua cultura, che in qualche modo... Dopo comincia subito a piangere. Esatto. Ha cominciato a piangere. Sì, si è commosso. Perché... E poi ha iniziato a tenere il ritmo su una specie di tamburo, giusto? Esatto, sì. Che poi non so esattamente, ma gli ha cantato proprio una canzone particolare. Di cosa parlava quella canzone? Sì, parlava come si dice, le ribellioni di Mali e Tuareg, delle cose. Uh-huh. Sì, perché questo ragazzo si chiama Mohamed, viene dal nord del Mali, sì, che è una zona che negli ultimi 5-6 anni ne ha subite di ogni, cioè tra certo. Lotte per l'indipendenza, invasione jihadista, guerre, interventi, certo. Esatto, quindi è scappato da quelle zone e comunque gli manca a casa sua. Quindi sì, è stato molto toccante. E ieri, in un concertino in cui alcuni anche erano presenti, organizzato da Claudia, siamo riusciti anche a coinvolgerlo. Sì, infatti lui era molto coinvolto, non solo, appunto, ha partecipato al concerto, sì, ha cantato con ma anche ballato, insomma. E poi lui è appassionato di rap, come ogni buon giovane d'oggi. E ha fatto anche, appunto, fatto un rap Tamashek, che era la prima volta che lo sentivo. Sì, insomma. Bene, direi il prossimo brano che ci fate ascoltare. È un rap Tamashè. No, loro l'hanno solo accompagnato. Si fa il brano che si chiama Tazudena Haggar. Questa mia paese è buona, mia città è buona. Questa mia città è buona. Bella, sì. Mia città è bella. Sì. Questo è sempre un brano tuo? Sì, sì. Che hai composto? Per capirci, la Gar è la regione dell'Algeria da cui proviene Aziz. Che è la regione dove c'è anche Biskra, per caso? No, è molto più a nord. Molto più a nord. La Gar è al confine tra il Mali e il Niger. Il Mali e il Niger. Ah, quindi proprio sud. Che, se posso dire, è una cosa che mi ha colpito da... da ignorante, mi immaginavo il deserto del Sahara, dune. Quando ho visto le foto della Gar sono rimasto sconvolto, perché ci sono montagne da 2000 metri, 1800, c'è anche 2700, cioè un paesaggio veramente sconvolgente, non immaginavo proprio. E ci sono anche degli insediamenti, dicevate ieri sera, ormai quasi delle piccole città. Sì, Tamarrasset è ormai una città vera e propria, e fa non so quanti abitanti farà, non lo so quanti, ne è grande un po', 150.000, nel pieno del deserto del Sahara, una città di 150.000. Anche questa è una cosa un po' strana. Sì, sì, per dire come non abbiamo assolutamente percezione, esatto, come insomma il paesaggio dei paesi del mondo cambia, ed è molto meno da stereotipo, da libro, da sussidiario dell'elementare. E vai di luoghi comuni. Esatto. Vai. calling. Ahudarin, we no calling. Siamo sempre su Ethno Chic, Radio Città del Capo, con i Team Midua. E mi dicevate prima che appunto la lingua si chiama? La lingua Tamashek. Sì, questa lingua Tamashek che è una lingua quindi parlata, non è una lingua scritta? O... Scritta anche. Anche scritta. Sì, sì, si scrive anche. Sì. È condivisa da tutte le popolazioni tuare, come dicevi prima. Sì, sì. Tifino, scritto si chiama Tifino, la lingua si chiama Tamashe. Uh-huh. Mm. Quindi c'è una tradizione anche di scrittura. Sì. E sono rimaste anche cose del passato, di scrittura. Sì, sì, c'è. Mm. Secondo me, ieri hanno firmato il volantino, no? Cioè, sono caratteri che mi ricordano quelli dei Sumeri, cioè, antichissimi, secondo me. Beh, le musiche... per esempio c'è Farmer, che è uno studioso di musica araba e anche delle origini della musica araba. Praticamente lui e altri studiosi sostengono appunto che la musica delle popolazioni Tuareg, ma anche delle popolazioni insomma che erano prima che arrivasse l'Islam, che infatti non hanno tutto il sistema Makam, è proprio dire, la base di tutta la musica delle popolazioni dall'Atlantico fino all'Arabia. Loro hanno mantenuto anche a livello proprio culturale molte cose, molte caratteri pre-islamici. Mm. Ad esempio il culto dei santi, dei morti, diciamo, di queste tombe che ci sono nel deserto, che sì, non è tipicamente islamico, o altre cose che riguardano la figura femminile, come parlavamo prima, che non appartengono assolutamente al mondo islamico. Il fatto che, ad esempio, la musica e la tradizione musicale e quindi tutto quello che veicola anche questo venga portato avanti dalle donne nella loro società, non è una cosa tipicamente araba, ecco, per capirci. No, lui con l'arabo in cosa differente. Mm-hmm. Sì, troppo differenti anche tutte le cose. Sì, è interessante come sono riusciti in qualche modo a resistere culturalmente, a comunque a esatto, tenere una tradizione, sì. Non per secoli, ma addirittura per millenni. Esatto, perché sì, quasi un millennio. Come dice Giampaolo, cioè, ci sono delle cose che effettivamente dobbiamo andare alle vecchie alle antiche civiltà. Leggevo che comunque il popolo Tuareg è un popolo berbero, quindi che appartiene al nord Africa, diciamo. E quindi ha dei rapporti linguistici anche con il berbero. Assolutamente, con l'Amazigh. Sì, sì. E infatti ora i popoli Amazigh stanno riprendendo la scrittura tifina, quindi se vai anche in Marocco, che sono centinaia di migliaia di chilometri di distanza, trovi gli stessi caratteri, perché li stanno recuperando un po' in questo recupero culturale dopo decenni di arabizzazione forzata. E quindi si pensa che appunto con l'invasione araba intorno al 800-900 d.C. questi popoli berberi hanno iniziato, proprio per non essere assimilati, a spostarsi verso sud fino a superare anche il deserto, perché li trovi in Mali, in Niger, quindi oltre proprio nel Sahel, proprio, diciamo. Beh, anche una piccola riflessione nella contaminazione con noi che siamo europei, lui comunque conserva un nucleo che secondo me è il suo, cioè non è che stiamo suonando roba tradizionale, però è molto, molto aperto alle nostre proposte e alle nostre influenze. Insomma, quello che rimane è il tipo di linguaggio, poi nel tipo di linguaggio puoi inserire anche cose. Infatti l'unico modo per portare avanti una storia è quello comunque di influenzarsi, ma mantenendo le proprie origini. Poi è poi quello che è stato un po' la storia della musica, in realtà, a livello appunto di trasmissione. Po' quello che fanno i Rom, che i Sinti, che girano tutti prendono un po' qua, un po' là, però sono loro che comunque portano avanti la tradizione alla fine. Vi chiediamo un altro brano. Si fa un brano, si chiama Taliat, Taliat la ragazza. Thank you. E siamo sempre con i Team Idua in studio. Ci sentite bene? Sì, anche un po' troppo. Un po' troppo. Questo brano quindi si chiamava La ragazza, giusto? Sì. E di cosa raccontava questa canzone? Racconta di una ragazza Tuareg. La ragazza Tuareg di solito fanno tisanas. E fanno una gioiello che si chiama Khomeisa. Khomeisa questa c'è 5 punti. Mm. E una gioiello bello di Tuareg. Che si mette al collo. Al collo, sì. Collante. È un po' grande. Mm-hmm. E c'è 5 punti bianchi. E, e questa Khomeisa l'ha fatta con pelle e osso. Mm-hmm. Sì. E le, come si dice? Questi punti che fanno con osso sono quadrati. Sì. Sono 5. Sono belli. E tisana è il velo che fanno le donne Tuareg. Mm-hmm. Si dice la ragazza bella, perché fare questa come seduta con questa Khomeisa e tisana si vede una cosa bella. Questa è la canzone. Perché comunque l'artigianato è molto importante. Eh sì, l'artigianato è molto importante per noi, sì. Perché c'è in sorta di Tuareg che si chiamano Inadan. Questi loro che fanno tutte le gioielli e le cose. E altri Tuareg non fanno le gioielli, fanno, per esempio, fanno le pastori, fanno un'altra cosa. Sì. E gli altri che si chiamano Inadan, loro fanno tutte le cose che vengono dal ferro, gioielli, le coltelli, mm-hmm. tutte le cose. Sì, sono come sì, gli artigiani fabbro, da noi, sì. Il fabbro, l'orfo. Sì. E questa è la famiglia di famiglia, non entra in altre persone. Anche sì. Il piccolo ti trova lui il prendere per fare un gioielli o un coltello o qualcosa. Sì, e sono proprio tradizioni familiari che sì, si trasmettono di padre familiare, in figlio, sì. Sì, come sì, una sì. volta. Che tra l'altro questo gruppo sociale diciamo, è molto importante anche nella musica, perché sono loro che suonano il terdent, quel liuto di cui parlavamo prima. Cioè, che è curioso che è una cosa che è anche un po' in tutto il Mediterraneo, come la tradizione dei barbieri o dei falegnami da noi, che erano poi quelli che avevano anche gli attrezzi e il saper fare di costruirsi degli strumenti. Sì, sì. E solo loro suonano. Prima, appunto, anche ieri al concerto parlavamo dei Tinari Wen, magari poi suoneremo anche qualche loro canzone. E la curiosità loro è che sono stati un po' una rottura nella tradizione, perché prima di loro solo a livello di uomini, che magari si cantavano accompagnati dalle donne, però per suonare uno strumento solo gli Inadan suonavano il terdent, gli altri uomini non suonavano niente. Ora invece con l'arrivo appunto, parliamo di quasi 30 anni fa, sì, che sono nati i Tinari Wen e altri gruppi affini, tutti suonano, tutti possono esprimersi con uno strumento, prima non succedeva. Quindi non c'è più questa prerogativa. Sì, chiaramente sul terdent sì, lo suonano. Sul terdent è rimasto comunque. Mentre ora i ragazzi suonano le chitarre, tutti suonano la chitarra. Anche ora in deserto, se ti va in deserto dove c'è le nomadi di Tuareg, sì, che non conoscono tanti le città e le cose, se ti prendono in chitarra così dici terdent. Lui dice chitarra. Certo. Lui dice terdent perché lui conosce terdent questa. Certo, perché la tecnica comunque è quella. Sì. Ma quindi questo strumento si sta andando un po' a perdere o ha perso solo magari? No, c'è ancora. Comunque sì, viene sì, suonato. Sì, fanno ancora, sì. E quindi... Prima dalle tutte le feste che fanno Tuareg, per esempio in città o le cose, prendono questa il fare terdent e gli altri ballano. Ora è cambiata, ora è uscita la chitarra un po' là indietro un po'. Ancora suonano. Mi sa ancora suonano, sì. E questo fatto che viene ancora conservato a cosa, cioè come mai non è non... ci sono alcuni preferiscono ancora suonare questo strumento. Sì, sì, anche sì, anche dalle feste fanno ancora con questo gli strumenti ancora. Matrimoni, sì. Un po' come dalle mie parti c'è la chitarra battente. Sì. Sarà più o meno così, che è stata anche rivalutata e ripresa ultimamente. Infatti questo volevo capire, cioè per esempio a volte succede che uno strumento che magari sembra un po' Superato da uno strumento che è più in voga, che si può trovare più facilmente, Poi ci sono delle forme di recupero, no? Come appunto la chitarra battente. Che poi è una chitarra stridula alla fine, rozza, che ha un suono suo, che rispetto a uno strumento perfetto che compri in negozio, è proprio diversa, quindi uno apprezza il suono proprio. Sì, anche perché è una timbrica e poi per esempio tutte le varie chitarre battenti hanno questo fatto che, come dire, danno un ritmo a questo loro suono, danno una componente ritmica in alcuni brani che sulla chitarra non renderebbe, certo, se il suono sarebbe troppo gonfiato sui bassi. Così. Anche prima questa chitarra, dicono, per esempio, gli Schumacher. Gli Schumacher che gli stringe la chitarra. E cos'è lo Schumacher? Schumacher, per esempio, le persone che non lavorano niente. Uh-huh. Come prima Tinario si dice Schumacher. Uh-huh. Perché lui senza niente, senza moglie, senza niente, il va dove va. Sì, tipo vagabondo. Vagabondo, sì. Mm. E questa dicono in Schumacher. Esce la chitarra di Schumacher. Ora, lì è dove io abito a Tamaraset, non c'è chi non suona la chitarra. Anche gli arabi che sono nati lì, per esempio, nata a Tamaraset e le cose, fanno le feste con la chitarra tuare questa. Quindi è cambiato, questo cambiato. Cambiamento è successo tutto sì, ora nell'arco è diventata grande, sì, la chitarra. Tutti vogliono, anche se fanno il matrimonio, la chitarra, si fanno la festa con la chitarra. Siamo un po' verso la fine, quindi vi chiediamo di fare sicuramente un altro brano e poi ci salutiamo. Va bene. Che brano suonerete? Cosa vuoi fare? L'alem. Si fare l'alem, il mondo. Questo è fatto per il mondo. In canzone del mondo, perché ora il mondo c'è tutto casino, c'è dove va c'è casino, c'è pace. E allora io ho fatto questa canzone che si chiama L'alam tar gardenetamote. Questo è il mondo tutto è cambiato. Sì. Ah, lui ci raccontava che una volta nel deserto, se in lontananza incontravi qualcuno, eri portato, no, all'incontro, al confronto, a salutarsi, no? Adesso è un po' diverso, se vedi qualcuno in lontananza cambia strada, che eviti dei guai. Sì. Quindi è cambiato effettivamente un po'. Sì. العالم تاع الغرد النيت تموتي زين Siamo quasi ai saluti finali. Ringraziamo moltissimo i Team Idua, Valentino, Asisi e Giampaolo. E volevamo chiedervi, avete dei concerti in programma prossimamente? Il 2, perché poi Valentino parte. Ti abbandono. Ci abbandona, abbiamo un sostituto per fortuna. E forse suoneremo al Mercatino del Mondo. A giugno, luglio. Sì. Il 2 luglio. Dovrebbe il 2 luglio, sì. Perfetto. E a Bologna. E per i contatti avete una pagina Facebook? Abbiamo una pagina Facebook, Team Idua, e poi abbiamo una pagina SoundCloud dove c'è delle piccole delle registrazioni che abbiamo fatto, quindi chi vuole riascoltare, anche in una chiave un po' diversa, perché noi generalmente suoniamo con le chitarre elettriche, e quindi se vogliono farci un'idea un po' nostro suono. Un piccolo cambio. E ricordiamo anche la pagina Facebook del progetto Sound Roots, dove potete trovare aggiornamenti sui vari concerti che si stanno svolgendo anche in questo periodo. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo moltissimo. Grazie a voi, grazie a tutti che ascoltano anche. E diamo appuntamento ai radioascoltatori per il prossimo mercoledì. Sì, sì, speriamo che vi sia piaciuta questa puntata specialissima, come dirla. Sì, praticamente qualcosa di non certo usuale. Siamo molto contenti. Purtroppo adesso dobbiamo lasciare spazio al giornale radio, ma insomma, vi diciamo buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.